Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati, terza puntata di questa stagione di Zibaldone. Andiamo subito a bomba con una bella canzone che ci introduce, o anche no, però insomma ci accompagna la puntata di quest'oggi. Sere Keta, questo è il titolo del brano con cui apriamo la puntata di quest'oggi. Oliver and the Black Spirits, metà anni 70, seconda metà di quel decennio, dall'Africa profonda, o meglio dire dallo Zimbabwe. Parleremo di Africa quest'oggi, ma Banzo, lo lascio dire a te e lascio anche svelare l'arcano di perché abbiamo cominciato con questo brano. Innanzitutto, buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Beh no, il titolo della puntata è FLIB 2025, quindi parleremo di cose geograficamente a noi più vicine e del ponte fra Italia e Catalogna che nel nostro piccolo costruiamo indefessamente da anni, cerchiamo di costruire forse. Abbiamo cominciato con questa canzone perché? Perché era bellissima, è una motivazione banale, però la selezione musicale di oggi non ha attinenza col tema della puntata, è bello avere anche queste puntate più libere, quindi abbiamo cominciato una puntata nella quale parleremo di letteratura italiana e letteratura catalana con un brano, come dicevi tu, proveniente dallo Zimbabwe o, per meglio dire, dalla Rhodesia, cioè l'infame incarnazione coloniale che ha preceduto l'attuale stato dello Zimbabwe, appunto, perché questo brano che abbiamo appena sentito proviene da una compilation uscita a maggio per Analog Africa che si intitola Roots Rock in Zimbabwe, The Modern Sound of Harare Township 1975-1980, raccoglie 25 brani, fra cui questo, che le note di presentazione descrivono come la nascita dell'industria musicale moderna in Zimbabwe. E questo brano, secondo me, dà un po' un segnale che va approfondito questo discorso, perché si tratta di una vera mina Comunque c'è una storia veramente enorme dietro questo disco, perché il titolo della compilation in realtà è quello di un libro uscito, non so esattamente quando, ma svariati decenni fa, a cura del musicista locale Fred Zindi, che viene ripubblicato insieme alla compilation. Nel libro vengono intervistati molti dei musicisti che appaiono appunto nella tracklist. Ma parlando brevemente di Oliver and the Black Spirits, e qui mi sbaglierò Steven, il nome di Oliver in realtà è Oliver Nkudzi, è un chitarrista dalla carriera lunghissima, aveva suonato anche con i Wagon Wheels prima, con i quali aveva raggiunto il successo in patria, ma la storia dei Black Spirits fu molto più lunga, hanno pubblicato fino al 2013 Discogs da attivo Oliver già fino al 2018, e il genere che suona è il Tuku, che a quanto dice Discogs sempre deriva dal suo soprannome, quindi è talmente identificato con lui che ha preso il suo nome, questo il genere che suona. Beh, comunque insomma il cognome è difficile per noi da pronunciare, ma il soprannome Tuku invece è molto più facile. Bene, insomma, bello cominciare con questo brano che ci riporta anche ci porta un po' lontano, come dicevi tu Banzo, puntata dedicata al FLIB 2025, il Festival di Letteratura Italiana di Barcellona, arrivato alla quarta edizione, questa edizione si intitola Gli anni in tasca, ne parleremo prima con Cecilia Ricciarelli, direttrice del FLIB, che ci racconterà un po' cosa c'è in programma. Il FLIB quest'anno si terrà dal 16 al 21 ottobre a Barcellona, in varie località, soprattutto del quartiere di Gràcia, e poi parleremo con uno degli ospiti, uno scrittore affermatissimo, bravissimo, che fa tantissime cose, anche un programma di radio su Radio Rai 3, parliamo di Paolo, però andiamo subito a bomba perché il tempo è tiranno in radio, Banzo, e abbiamo un secondo brano che è in questo caso invece una news che ci arriva però sempre da lontano. Da molto lontano, perché arriva dall'Amazzonia, però quando si parla di Amazzonia si pensa sempre al Brasile, statisticamente è anche normale, ma in questo caso deriva, questo brano arriva dall'Amazzonia peruviana, per la precisione dalla città di Tarapoto. Vi facciamo sentire i Waiku col brano Amazonas, è un progetto nuovo nato a fine 2022 a opera del chitarrista Percy Navarro Flores, e ha come diciamo la sua missione è quella di recuperare sonorità di quella parte del territorio amazzonico mescolandole con linguaggi diversi come possono essere quelli del jazz e del rock, con la chitarra come sentirete come strumento principe. E comunque non si tratta diciamo di una fascinazione, di un esotismo superficiale, perché Navarro Flores in realtà è anche un ricercatore e ha condotto ricerche etnografiche nelle comunità native di San Martino e Loreto, quindi i suoni li ha attinti direttamente dal contatto con le comunità native, poi ovviamente come sentirete sono stati ricontestualizzati. Il disco si intitola Selva Selva e il brano che andiamo a ascoltare Amazonas, perché insomma concettualmente è tutto chiarissimo, è pubblicato dall'etichetta di Lima, quindi sempre Perù, Boo Records, che se non sbaglio abbiamo già trasmesso qualcosa dell'etichetta di Baldone. E comunque ce l'andiamo a sentire, li seguiremo perché sono sempre proposte interessanti. Ce l'andiamo a sentire, eccoli qua, Amazonas Waiku. Vediamo un po' questa Amazzonia peruviana, come suona. E per parlare quindi di questa edizione del FLIB, Festival di Letteratura Italiana a Barcellona, dialoghi letterari molto mediterranei fra le due sponde, abbiamo con noi anche quest'anno Cecilia Ricciarelli della Libreria Italiana Le Nuvole di Barcellona e direttrice artistica appunto del FLIB. Cecilia, innanzitutto bentornata a Zibaldone, un piacere riaverti con noi. Grazie Steven e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, come dicevamo, quarta edizione del FLIB, 16-21 ottobre di questo 2025, la Biblioteca Jaume Fuster e altri spazi di Barcellona, tra due settimane, quindi insomma la città si riempie di eventi che hanno a che fare con la letteratura italiana, con ospiti importanti, ma cominciamo subito dal titolo di questa edizione, anche un po', se vuoi, insomma, immagino tu sia contenta che il FLIB continui, no? Il quarto anno è un anno importante, sì. E poi insomma il perché di questi gli anni in tasca, che è il titolo del FLIB 2025. Allora, sì, effettivamente sono molto contenta che sia la quarta edizione e gli anni in tasca, perché praticamente quello che io mi proponevo era vedere che cosa abbiamo in tasca e che cosa ci rimane dopo questi primi 25 anni del secolo, cioè un quarto di secolo è passato. E quindi cos'è successo? E tra le varie cose che proponiamo, come sai, come sanno ormai le persone che ci seguono da tutti questi anni, ci sono dei dialoghi tra autori e autrici tra le due sponde. Quindi uno del quale abbiamo già parlato nei nostri social è l'incontro tra Nicoletta Verna e David Uccles sul perché, quello che io mi chiedo, perché tante persone scrivono romanzi storici, cioè ambientati non nel presente ma nel 40, 50, 70 anni fa, e tanti lettori, e te lo confermo come libraia, invece di andarsi a prendere magari la storia di Elsa Morante, comprano M di Antonio Scurati. Cioè andiamo a ricercare in un momento storico probabilmente così inquietante, con una terza guerra mondiale a pezzetti alle porte, andiamo a ricercare un po' che cosa sta succedendo, come interpretare attraverso la metafora della letteratura, però dal punto di vista di autori e autrici che condividono il nostro momento storico, quindi il romanzo storico. La storia è un po' come specchio per capire anche forse il presente, no? Esattamente, esattamente, come metafora di quello che ci sta succedendo. E questo tavolo mi fa molto piacere che siamo riuscite a ottenerlo, perché sia Nicoletta Verna sia David Uccles hanno partecipato al premio dell'Unione Europea per la letteratura, che è stato vinto da Nicoletta Verna, quindi molto importante. Questo sarà, tanto per dirlo anche, poi insomma potete cercarvi il programma sui sì. social del FLIB, è sabato 18, quindi sì, sabato esatto. 18 ottobre. Ma sì. Un'altra cosa secondo me interessante, così per fare anche un po', sai, dare alcune chiavi di lettura appunto di questi anni in tasca e anche un po' degli ospiti che ci sono, poi insomma la cosa migliore è andarseli a vedere, ascoltarli. Un'altra cosa interessante, parlavi di romanzo storico, però c'è anche un momento importante dedicato a Camilleri e in fin dei conti anche al noir, no? Certo, certo, esatto, sono Camilleri 100, ma come sai nel festival non c'è un solo argomento, ci sono tanti argomenti, uno è questo del romanzo storico, l'altro per capire questi 25 anni del secolo, questo quarto di secolo, è il linguaggio, quindi avremo Paolo Di Paolo che ci parlerà, cioè ci farà un po' capire. Ci sono delle cose, Steven, che come tu ben sai, lavori alla radio, non si dicono più ormai, non stanno né in cielo né in terra, come si dice, no? Ecco, il linguaggio secondo me è una delle cose che sono maggiormente cambiate. Quindi, anche per i social, direi, no? Anche, ma non solo, cioè forse anche più una coscienza, forse anche il femminismo, forse certo. l'abilismo, insomma, in tanti e tante hanno contribuito a a che questo linguaggio sia più ampio. Sì, infatti dopo ne parleremo anche proprio con Paolo Di Paolo, che sarà esatto. nostro ospite quest'oggi. Paolo Di Paolo in realtà apre, no, questa edizione del FLIB giovedì 16 ottobre, lo stato della lingua, no? L'italofonia, sì. lingua oltre i confini, alle 18, giovedì 16, ma poi anche un appunto questo dibattito, no? tra due sponde, ci sarà anche David Guzman e Mario Brero, lingua e lingue, la sì. parola mutante. Sì, esatto, esattamente, come ti dicevo, quindi ci sono tanti, sono tante le, come si può dire, le porte che apriamo per cercare sempre, gli anni in tasca appunto, per cercare di capire che cosa ci ha portato questo primo quarto di secolo e come possiamo interpretarlo. Per dire anche alcuni scrittori che saranno presenti a questa edizione, abbiamo già detto, no? Paolo Di Paolo, David Uclès tra gli altri, ma appunto anche Carlos Zanono o Lidia Ravera. Esatto, sono molto contenti di avere Lidia Ravera che con i suoi libri che consiglio a tutti quanti di venire a sfogliare in libreria ma anche durante il festival, con lei vorrei fare proprio un excursus di questi anni, come per esempio uno dei suoi grandi argomenti è come la terza età è percepita oggi, no? Le persone diventano sempre più grandi e stanno bene, voglio dire, sono in forma, mai come in quest'epoca storica viviamo a lungo, però c'è una ricerca soprattutto per le donne della bellezza fisica, del tempo che non passa, sto tempo che incombe, e quindi l'ultimo suo titolo, anche molto polemico, è Volevo essere un uomo, cioè proprio da Lidia Ravera, sarà molto interessante chiacchierare con lei. Sì, anche lei sabato 18, e poi c'è spazio sì. anche per la poesia, no? Assolutamente, come sempre, la domenica sarà dedicata alla poesia, ma anche alla parola declinata attraverso la musica. Sì, perché ci sono appunto, come anche gli anni scorsi, anche poi soprattutto in serata e in vari momenti, no, del FLIB tra il 16 e il 21 ottobre, anche dei concerti, degli spettacoli. Sì, esattamente, uno spettacolo che sarà un omaggio a Patrizia Cavalli, un altro, due spettacoli che vengono dal Insule Lab, che è dalla Sardegna, quindi, che è il laboratorio di Paolo Fresu, e che saranno sia il sabato che il venerdì. Insomma, un sacco di cose. E per chiudere, Cecilia, perché poi insomma così noi stiamo dando degli spunti, poi andate a cercare bene il programma e vedere un po' tutto quello che c'è in ballo, no, per questo FLIB 2025. Ci sarà anche spazio per i più piccoli, no, con il FLIB Junior, sì. e un laboratorio di scrittura con Veronica Raimo. Sì, esatto. Allora, sempre la parte junior, quest'anno ci saranno due incontri per i più piccoli e le più piccole, uno è dedicato a Camilleri anche, e poi finito alla Biblioteca Jean Fustè, lunedì e martedì c'è il laboratorio che Veronica Raimo farà, un laboratorio di scrittura su fiction, autofiction e invenzioni letterarie, quindi... Il titolo è molto bello, niente di vero, niente sì. di inventato, quindi insomma alla fine sì. dici cosa rimane, questo ce lo spiegherà Veronica Raimo, no? Assolutamente, ma del resto, Steven, quando uno si affaccia, come dicevi tu, allo specchio della letteratura, che cos'è che ci vede? L'autore ci ha messo di sé anche se racconta di Mussolini, noi ci mettiamo di noi anche se stiamo leggendo parole che raccontano la vita di altre persone, sì. quindi comunque è sempre uno specchio. Insomma, dimmi. Io volevo aggiungere un'altra cosa, visto che stai rimandando al programma che uscirà nei prossimi giorni, ma che finalmente siamo riusciti ad avere la pagina web, quindi andatevi a cercare il FLIB con la pagina web, con gli ospiti di quest'anno e gli ospiti degli anni passati. Fantastico. FLIB, Festival di Letteratura Italiana a Barcellona, quarta edizione, gli anni in tasca, 16-21 ottobre 2025, soprattutto alla Biblioteca Jaume Fuster, ma poi appunto ci sono anche altri spazi. Guardatevi bene il programma. Cecilia, grazie davvero di essere stata con noi. In bocca al lupo, perché adesso so che saranno settimane e giornate molto intense e insomma ci ritroveremo al FLIB senza dubbio. Assolutamente, molte grazie a tutti. Ciao. Belforti. E ora abbiamo con noi Paolo Di Paolo, è un vero piacere, un grande piacere averlo con noi qui a Zibaldone, uno degli ospiti, come avete già sentito, del FLIB 2025. Lui sarà insomma in apertura di questo festival, perché farà un incontro giovedì 16 ottobre alle 18, intitolato Lo Stato della Lingua, Italofonia, Lingua Oltre Confini, che tra l'altro è organizzato con la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, e alle 19 dialogherà con Mario Obrero e David Guzman, Lingua e Lingue, la parola mutante. Paolo, innanzitutto benvenuto e buon pomeriggio. Grazie, grazie per l'invito. Ascolta, la tua produzione è sterminata. In questi poco più di 20 anni hai scritto romanzi, racconti, saggi, hai curato tantissime opere, collaborato con il teatro, letteratura per ragazzi. Comincerei però da una cosa, visto che l'edizione di quest'anno del FLIB è Gli anni in tasca, e come ci ha spiegato Cecilia Ricciarelli, è un po' cercare un po' di fare il punto di questi anni 20, questi primi 25 anni di questo secolo e di questo millennio. Tu 5 anni fa, nel 2020, hai pubblicato un libro che si intitola Svegliarsi negli anni 20. Insomma, come siamo messi? Perché tra l'altro tu lo presenti questo libro, che tra l'altro, pensando a come va il mondo adesso, dice: è un viaggio pensato per interrogare, esplorare e leggere questo tempo molto inquieto. Ecco, un tempo molto inquieto, come dobbiamo leggerlo? Ah, guarda, io quel libro l'ho scritto con un'aspettativa diversa, o meglio, ho pensato di scriverlo con un'aspettativa diversa sui 10 anni che si stavano per aprire. Tieni conto che l'avevo immaginato nell'autunno del 2019, adesso ti aiuto e vi aiuto a ricostruire che cos'era l'autunno del 2019. Avevo detto a me stesso: mi piacerebbe entrare in questo decennio, che sarà comunque quello, diciamo, della mia piena maturità, ormai irreversibile, con slancio e con la sensazione che magari, guardando anche a cosa erano stati gli anni venti del secolo scorso, se ne potesse cavare il meglio, cioè non la parte inquietante, cupa, perturbante e tra l'altro distruttiva, ma la parte invece folle, la parte, pensa agli anni venti in un film di Woody Allen come Midnight in Paris, no? Cioè l'idea che ci fosse un fermento, un cambiamento, un rinnovamento artistico, linguistico, eccetera. E appunto, che è successo? Che io mi ricordo questa chiacchierata con un editore, con l'editor di Mondadori, l'editore italiano che l'ha pubblicato, su una terrazza romana, c'era un cielo bellissimo, era l'autunno, come adesso, inizio dell'autunno, e poi siamo precipitati nella pandemia. E quella cosa lì, cioè aver chiuso quel libro sostanzialmente nei primi mesi, quelli più feroci della pandemia, mi ha fatto cambiare completamente un po' la struttura del libro e un po' la riflessione complessiva, perché non volevo fare il famoso 2+2, che è un'espressione italiana per dire, no, che vai a guardare in un modo troppo meccanico le cose, e non volevo fare la storia dei corsi ricorsi a dire che tutto torna identico, perché non è vero, ma oggettivamente avevo di fronte a quel punto una pandemia enorme, quella che stavamo vivendo e quella di 100 anni fa, che era l'epidemia detta di spagnola, per l'appunto. E poi da quel tunnel della grande malattia, diciamo, si usciva ammaccati, se vivi soprattutto, ma con l'ombra anche della grande guerra, e siamo precipitati in una turbolenza geopolitica che ci fa ripensare al nostro stare al mondo, soprattutto in Europa, come una sorta di zona di fragilità e di vulnerabilità anche esposta ai venti bellici e bellicisti. E ovviamente finisco questo libro nella tarda primavera del 2020, esce poi dopo l'estate, e mi sembra che suoni qualche volta anche come un'inquietante profezia, nel senso che tutte le turbolenze che io cercavo poi di cogliere anche un po' a ritroso si stavano attuando in questa nuova versione negli anni venti del secolo in corso. Non voglio però mai, capito, essere apocalittico oppure rassegnato o necessariamente pessimista. Certo è che questo svegliarsi negli anni venti, e devo dire che uno scrittore tra l'altro molto conosciuto anche in Spagna, Claudio Magris, mi aveva messo in guardia perché mi ha detto: guarda, che questo svegliarsi negli anni 20 è più che altro un addormentarsi negli anni 20. E lui dice: c'è un grande sonno, e forse questo grande sonno è anche proprio il sonno, il famoso sonno della ragione. Ascolta, tu hai lavorato su molti autori, con molti autori, hai curato molte pubblicazioni, no, di scritti, insomma, citavi ora Magris, ma da Dacia Maraini a Indro Montanelli, a Tabucchi e tanti altri, o anche raccolte, no, che su diverse tematiche, no? Ecco, tu diciamo hai sempre il passato molto presente, quello che è la letteratura italiana e non solo, però guardi anche al futuro, e soprattutto anche con un'attenzione a come cambia la lingua. E dal 2020, tra l'altro, sempre proprio quel 2020, conduci un programma molto bello, La Lingua Batte, no? Su Rai Radio 3 tutte le domeniche al mattino. Ecco, e sì. Tu quando hai pensato questo programma e come lo presenti, dici: ma insomma, ma è poi così vero che la lingua italiana sta andando un po' a rotoli, gli anglicismi, le cose, sì, che arrivano da internet? Insomma, ecco, alla fine che idea ti sei fatto dopo quasi ormai cinque anni, un lustro cinque di programma? Anni, tra l'altro, ti hai conto che la prima puntata va in onda a gennaio, la mia prima puntata va in onda a gennaio del 20. A un certo punto ci dicono che non potevamo fare più niente in studio perché non eravamo trasmissione di informazione, quindi eravamo costretti già a mandare delle repliche. Io ho detto: ma se abbiamo appena cominciato. E allora ho inventato questa cosa del lessico della tenacia, e praticamente, guarda, davvero credo per diversi mesi fino all'estate siamo andati avanti facendo la puntata praticamente su WhatsApp, cioè sostanzialmente collazionando audio di persone, testimoni che mi aiutavano a costruire un filo. Io cucivo, diciamo, il ragionamento intorno praticamente a delle tessere audio che venivano da grandi scrittori, studiosi, linguisti, eccetera. Detto ciò, certo è un osservatorio sulla lingua, però sempre con una chiave appunto non apocalittica. Quando uno dice la lingua si è imbarbarita, beh, questa è una frase che spesso un po' indica l'anagrafe di chi la pronuncia, e poi in generale è abbastanza ricorsiva, cioè se tu torni indietro anche diversi decenni, credo valga lo stesso per la lingua castigliana o per la lingua catalana, cioè è ovvio che chi la osserva mutando, vedendola mutare, ha l'impressione che si impoverisca o che peggio sia in qualche modo infiltrata dai dialetti, altre lingue gergali, che ti posso dire appunto, forestierismi, e tutto questo dà la sensazione che sia una lingua che si inaridisce. In realtà una lingua fino a che viva non è mai arida, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che anche le cose che ci turbano, disturbano, e ne parleremo senza dubbio anche al FLIB, quelle che ci danno fastidio. Io ho inaugurato in questa puntata ultima una rubrica che si chiama Ma come parla, che è l'esclamazione che Nanni Moretti fa in un film molto famoso, Palombella Rossa, quando si indigna con una giornalista che usa appunto degli anglicismi e delle frasi fatte, no? E urla: ma come parla? E arriva addirittura alle mani, cosa che oggi sarebbe perfetto, abbastanza sanzionabile, ma a parte la cosa giocosa, e abbiamo registrato una quantità già nella prima settimana di frasi che gli ascoltatori, locuzioni, frasi, anglicismi, che gli ascoltatori non sopportano. È un gioco, ovviamente, proprio per dire: teniamo viva comunque la nostra sensibilità linguistica. Però poi la verità, come ha raccontato Giuseppe Antonelli, che è stato un po' l'ideatore della trasmissione, che è un bravissimo e importante linguista, e la verità è che quando pure non ci piacesse un certo uso di una locuzione, piuttosto che con valore disgiuntivo, viene molto usata in Italia e sarebbe non corretta formalmente, quella locuzione poi alla lunga potrebbe imporsi nell'uso. E quando si impone nell'uso diventa norma alla lunga. Cioè niente in una lingua è inscalfibile, inamovibile. Questo non significa facciamo passare tutto, parliamo sciattamente. Cioè, infatti io ho intitolato quella puntata ultima La coscienza della lingua, e credo che sarà un po' il tema di questa conversazione con Mario Obrero, perché se tu hai coscienza della lingua, se tu non la usi come qualcosa che ti esplode tra le mani, un po' a casaccio, un po' a caso, quella lingua comunque, anche dove magari si piega a espressioni triviali oppure appunto a cose che potrebbero essere dette in un altro modo, insomma è una lingua che però mantiene una sua duttile coscienza, cioè l'idea che tu sai che cosa stai dicendo, quindi i livelli della lingua e qualche volta anche appunto delle aperture ad altre lingue senza quella brutale intromissione, diciamo, di inutili forestierismi, perché io non sono, diciamo, per l'autarchia linguistica, però mi rendo conto che quando sento parlare gente del mondo delle aziende in Italia un po' no, resto un po' turbato, perché c'è una quantità di inutili anglicismi che potrebbero essere sostituiti con dei sinonimi. Mi sono sempre stato dell'idea che se uno conosce un'altra lingua ben venga, ma la propria può usarla con una maggiore, appunto, intensità, ecco. Quindi diciamo che questo è l'osservatorio, no? Cioè noi guardiamo questa lingua che cambia ovviamente insieme al paese e a chi la usa, ma non dobbiamo pensare che sia un monolite, perché se pensiamo che sia un monolite significa che è morta, certo. È come il latino. È certo, è una lingua viva, appunto, come, e in quanto viva cambia, e bisogna capire come sta cambiando e studiarlo, analizzarlo. Ascolta, collegato anche con questo, no, pensare a come una lingua stia cambiando, ci sono poi ovviamente i giovani, i ragazzi, e tu a questo hai dedicato tanti libri, hai cercato, no, libri per ragazzi e libri anche per spiegare la lingua o i classici, per così dire, no? Penso alla Divina Commedia della letteratura italiana ai ragazzi. Ecco, quanto è importante comunicare appunto com'è la lingua ai ragazzi, e che feedback hai avuto anche magari negli incontri che hai avuto con i più giovani? Ma io, guarda, questa attività, diciamo, di militanza, chiamiamola anche civile, nelle scuole la faccio molto già di per sé. Al di là dei miei libri, mi capita molto di andare per fare laboratori di scrittura, incontri con gli studenti sulla politica, sulla letteratura, sui classici, qualche volta anche ovviamente sui miei libri che vengono tanto in tanto adottati, letti, quindi tutto questo mi gratifica molto. E quando mi trovo a parlare con i più giovani, in realtà ne esco 9 volte su 10 anche piuttosto confortato, perché nel momento in cui tu gli poni delle questioni che siano di natura perfino linguistica, cioè li porti a riflettere su qualcosa, di solito tendono anche a spiazzarti, a scavalcarti a destra e a sinistra con intelligenza, con intuizioni. Non è vero che c'è una giovinezza solo apatica, inerte, anche questa è quel tipo di categoria, no, che si ripete nei decenni. Non è che la mia generazione non sia stata tacciata ad essere appunto arresa, passiva, poco intelligente, poco colta, quindi non funziona. Ci sono certo delle interferenze nel presente che talvolta rendono la concentrazione e la capacità proprio di lettura effettiva molto molto più fragile di quanto potesse essere in altri momenti storici, però facendo i conti con questo e lavorando per esempio su ciò che nei classici della letteratura resta interessante per uno che ha 15 anni oggi, tu fai secondo me delle cose molto interessanti. Io appunto ho adattato La Divina Commedia per ragazzi, quello è stato un libro che ha avuto una notevole fortuna, perché non era la presunzione di sostituire l'opera, ma era un ponte verso l'opera. E oppure quando mi è capitato di scrivere un libro intitolato I classici compagni di scuola, lì mi sono inventato proprio una struttura per cui una dozzina di personaggi della grande letteratura diventavano profilati come fossero compagni di classe, no? Quindi c'hai il compagno di classe avventuroso, quello pigro, quello invece stizzoso, quello più coraggioso, e mi ha dato la sensazione che funzionasse proprio questo, cioè la possibilità di riconoscere dei personaggi scritti, raccontati in tempi molto remoti, ma che hanno però quei tratti umani che tu ritrovi anche chi hai in classe in questo momento. Tu recentemente, nel 2023, hai anche raccontato ai giovani, diciamo, un po' la tua vita, ossia come si è diventati scrittori, anche immagino per invitarli, trovati un lavoro e poi fai lo scrittore. Ecco, sì. Com'è stato raccontarsi ai ragazzi per dire, insomma, io ce l'ho fatta, sono diventato quello che ho sempre voluto fare? Sì, guarda, io quello è un libro che ovviamente ho costruito come un libro molto giocoso e anche visivamente spericolato, perché è pieno di ritagli, immagini, non so bene neanche quale sia la collocazione esatta, un libro per ragazzi, un libro per adulti che si ricordano di essere stati ragazzi, non so, anche in libreria credo che abbiano fatto un po' fatica a collocarlo, ma sono molto divertito perché sarebbe stato ridicolo, lo dico con grande onestà, fare alla mia età, comunque sono nato nei primi anni 80, cioè sarebbe stato un po' patetico, se non grottesco, mettermi a raccontare me stesso in modo diretto, no? Perché che senso ha? E invece no, volevo raccontare piuttosto quel ragazzino che sognava di vivere in mezzo alle parole, in mezzo ai libri, alle storie, e ci è riuscito, penso, con una buona quota di fortuna, perché questa non è trascurabile, è inutile credere che solo il proprio talento sia il punto, la chiave, perché tanti hanno talento e non necessariamente riesci a intercettare l'occasione giusta, riconoscerla, quindi sicuramente una gran quota di fortuna. E poi l'altra parola chiave che ho sempre messo al centro, più ancora del talento, perché il talento può anche illuderti, non so come dire, cioè tu sei bravo a fare una cosa, a cantare, a recitare, a scrivere, a fare sport, e pensi che ti puoi appoggiare su quella cosa di cui in realtà non sei nemmeno responsabile, no? Perché un talento ti arriva un po' come una grazia, non è Sì. che tu hai deciso quello, l'inclinazione che forse fa capo alla genetica, forse all'epigenetica, ma in ogni caso non sono io il proprietario del mio talento. Io posso provare a farlo fruttare, e la parola chiave, visto che parliamo di parole, secondo me è ostinazione. Cioè, io quello che ho detto quando sono andato in giro a parlare di questo libro, soprattutto nelle scuole, ho detto: io vi ho raccontato questa storia non perché fosse interessante il ragazzino timido che poi alla fine ha capito che voleva scrivere e c'è anche riuscito a farlo diventare un lavoro questo scrivere, no? Voglio raccontarvi quanto bisogna ostinarsi a perseguire quell'obiettivo, perché io ho letto una volta una frase di Philip Roth, il grande scrittore, grande discusso scrittore americano, che dice: non è il talento ad avere salvato la mia vita, ma l'ostinazione. Cioè, alla fine, no, tu un libro buono lo puoi anche scrivere un po' per caso, una canzone bella ti può scoppiare tra le mani, ma durare nel tempo è solo frutto di una ostinazione pertinace, pervicace. Cioè, c'è una capacità che dobbiamo, come dire, alimentare di essere i datori di lavoro di noi stessi, soprattutto in ambito creativo. Cioè, se tu non ti metti là la mattina, non c'è nessuno che ti citofona e ti dice: Paolo, ma stamattina non le scrivi 10 pagine? Cioè, il mondo non gliene frega niente del fatto che tu possa scrivere il tuo libro o comporre le tue canzoni, almeno fino al punto in cui, diciamo, non hai una notorietà e una popolarità che diventa anche redditizia per altri, no? Quindi allora uno potrebbe anche pregarti di scrivere un libro, di fare un nuovo disco, ma fino a quel punto sei solo tu che la mattina ti piazzi lì e anche se le parole non vengono, insisti, ti ostini. Questa ostinazione mi sembra un punto chiave, perché effettivamente mi rendo conto tante volte di vedere anche giovani, o dico persone relativamente giovani, che a un certo punto entrano in quella secca in cui non sono più motivati. È vero che il mondo può molto deluderti in questo senso, eh. Io non è che voglio dire, non lo so bene che significa, per esempio, mandare, che ne so, 4 volte un manoscritto a una casa editrice e non avere nemmeno una risposta, né un sì né un no. Lo so benissimo, perché all'inizio ho visto che cosa significa anche il silenzio, o soprattutto il silenzio. Però se non ti fai poi una ragione anche di quelle porte che ti arrivano sul muso e insisti, e alla fine dici: alla lunga avrò ragione, questa cosa qua, che non è che poi non è neanche una forma, secondo me, di presunzione o di narcisismo, ma è proprio di convinzione. Cioè, c'entra poco, secondo me, pure la presunzione. Non è che uno pensa: ah, il mondo riconoscerà quanto sono grande. No, no, no, ma sei tu che devi comunque, capito, mettere a frutto quello che credi di saper fare, perché gli altri, ribadisco, verranno raramente a pregarti di continuare. Quindi quel libro diceva: trovati un lavoro e poi fai lo scrittore, perché era la frase che mi diceva mia nonna, molto pragmatica, e che nonostante che io fossi stato finalista comunque allo Strega, cioè un premio comunque importante in Italia, lei non ha fatto in tempo, credo, a vedere la seconda volta che sono stato finalista più di recente a quel premio, ma fino a che, insomma, visto che comunque un po' di riscontri ce li avevo, due cose mi diceva. La prima è: quando vai in televisione, per favore, mettiti la cravatta. E non l'ho mai accontentata, perché credo di aver messo le cravatte solo ai matrimoni, e non miei, peraltro, almeno fino adesso. E poi l'altra cosa era: trovati un lavoro. Io dicevo: nonna, ma è un po' un lavoro anche questo. Sì, ma io ho capito, a te ti piace scrivere, però Un fai lavoro un lavoro serio, che un scrivi, lavoro e poi serio. scrivi, Esatto. Ascolta, per salutarci una cosa, perché potremmo parlare con te ore e ore, ma spero che abbiamo, che ci siano nuove occasioni in futuro. E allora, prima dicevamo, no, Tabucchi, menzionavo rapidamente Magris, che lo citavi tu, Dacia Maraini, insomma, poi penso anche a Umberto Orsini, Indro Montanelli, su cui tu hai raccontato la sua vita, hai pubblicato tanti suoi scritti. Ecco, ma se dovessi così a botta, no, a domanda risposta, a botte pronto, come si dice in spagnolo, dire: beh, la persona che ha più influito sulla maniera di scrivere è di tutti questi o di altri? Quale sarebbe? Non ho dubbi, è sicuramente Antonio Tabucchi, perché quando ho letto Sostiene Pereira, a firma Pereira, credo che sia la versione spagnola, e l'ho letto con un tale così incantamento che ho pensato: questo scrittore da qualche parte è vivo. Cioè, per me è stata come la rivelazione della letteratura contemporanea in senso proprio pieno, letterale. Cioè c'è un mio contemporaneo che ha scritto, sostiene Pereira. Io l'ho letto ovviamente un po' in ritardo perché ero troppo piccolo quando uscì il libro, però in quel momento ho capito che cos'era la letteratura contemporanea, ribadisco, in senso letterale. L'ho cercato anni dopo, avevo letto i suoi libri restandone proprio soggiogato perché mi piaceva questa scrittura lirica, pastosa, piena di echi, di rimandi, anche soprattutto di sensorialità, perché Tabucchi è uno scrittore che fa sentire molto i luoghi, no? Ovviamente la geografia dominante è quella del Portogallo, però anche le Azzorre, e comunque sono racconti ambientati spesso anche in luoghi ameni, cioè sull'isola di Creta oppure in giro per l'Europa. E questo sentimento del tempo, dei luoghi, mi aveva conquistato. L'ho cercato con la scusa di fargli un'intervista sul viaggio, lui me l'ha accordata, era un ragazzo di poco più che 20 anni, e ne è nata un'amicizia che nonostante i 20 anni di i 40 anni di differenza che ci separavano, è stata molto intensa soprattutto negli ultimi anni. Però penso, ti dico una cosa, che io non sarei qua, neanche qua stasera, cioè qua nella condizione in cui sono oggi, se non avessi incontrato lui, perché è vero che avrei scritto comunque, ma la fiducia che mi ha accordato nel momento in cui, mi ricordo, ti dico quest'ultimo episodio, a un certo punto io ho lavorato con lui a un libro che si chiamava Viaggi e altri viaggi, Viajes y otros viajes, che è pubblicato in Spagna da Anagrama, ed è una raccolta di scritti di viaggio che io l'ho aiutato, e visto che eravamo entrati in confidenza e lui si fidava, a mettere insieme, no? Per me è stato come se mi avesse chiamato Bob Dylan e avessi voluto incidere un disco, cioè quelle robe là che tu dici, non ci credo, stavo alla stazione Termini, sono Antonio Tabucchi, avevo pensato a lei, mi aveva dato del lei, per darmi una mano, per fare un libro, ho detto non ho capito, cioè non lo so, non ho capito bene, vengo a piedi dovunque lei sia. E poi appunto è nata questa amicizia, ma insomma, per fartela breve, a un certo momento una sera mi dice, ma tu scrivi, no? E dico sì, certo, perché non è che poi gli avessi parlato più di tanto delle cose mie, cioè io stavo facendo comunque l'università, scusami, un dottorato di ricerca, o stavo finendo l'università, insomma ero in quegli anni là in cui certo giravo intorno a me stesso, cercavo di scrivere un po' sui giornali, facevo critica letteraria, avevo fatto qualche piccola prova con piccole case editrici, e dice ma lei, tu scrivi? E dico sì, fammi leggere. E mi ricordo questa scena, ovviamente questa non mi abbandonerà mai, io gli do, anche un po' recalcitrando, la stampata che avevo dietro del mio primo libro Feltrinelli, che si chiamava Dove eravate tutti, che si sarebbe chiamato poi Dove eravate tutti, e mi ricordo che lui passò la notte, perché era abbastanza insonne, comunque nottambulo, a leggersi questo libro. La mattina dopo lo trovo a colazione, con una maglietta bianca e la matita dietro l'orecchio, come sai i cartolai o i macellai di paese, che aveva annotato il mio libro e aveva scritto delle cose che andavano bene e delle cose che non andavano bene. E questa cosa senza dirmi se era bello o brutto il libro, il modo in cui si era chinato su quella cosa, no? Cioè tu dici, cazzo, lo scrittore che io ammiro di più in questo momento si è chinato su quelle pagine e mi sta dando dei consigli. E mi dava dei consigli sulle maiuscole o sulle virgole, per dirti, o su un finale che secondo lui non funzionava ancora. Ecco, qui in quel momento, no, quando tu c'hai 26 anni, perché tanti ne avevo, e c'hai Tabucchi davanti che ti dice qualunque cosa che riguarda la tua scrittura, quello è stato il momento in cui ho capito forse che potevo scommetterci su questa cosa, no? Quindi oggettivamente non solo mi ha influenzato moltissimo, e infatti anche nei libri che poi ho scritto circola molto la sua presenza, circola qualche volta segretamente, qualche volta apertamente. Mi è dispiaciuto che sia morto così presto, perché il libro che poi mi ha dato più fortuna, che si chiama Mandami tanta vita, è un libro sulla figura di Piero Gobetti, un intellettuale antifascista morto giovanissimo. E io gli avevo parlato su Boulevard Saint-Germain a Parigi, in un bistrò, una sera di gennaio gelida, e gli avevo detto, io voglio scrivere su questo, e lui mi aveva incoraggiato, mi ha detto torna in primavera che andiamo al Père Lachaise, al cimitero, a vederla, la tomba, perché e purtroppo lui quel libro non l'ha letto, ma è stato come se l'avessi scritto per farglielo leggere, no? Come se tu scrivessi immaginandoti l'interlocutore ideale, e forse è stato quello che poi, chissà, ha giovato a quel libro e l'ha reso così fortunato, perché dopo quel libro, ecco, questo posso dirtelo con molta sincerità, io dopo quel libro, che è stato finalista allo Strega appunto ormai più di 10 anni fa, io ho cominciato a vivere di questo lavoro, quindi, cioè, e lo vedi, è anche fortuna, no? Però a un certo punto questa cosa di riconoscere dei maestri, dei compagni di viaggio, unita all'ostinazione, fa la differenza. Che meraviglia, che meraviglia. Grazie Paolo davvero per averci accompagnato oggi, per questi, anche questi ricordi così intimi. Vi ricordo, Paolo Di Paolo apre il Flip 2025 giovedì 16 ottobre al pomeriggio qui a Barcellona, e ovviamente seguitelo non solo per le tantissime pubblicazioni, saggi, romanzi, racconti e progetti che ha, ma poi tutte le domeniche su Rai Radio 3 La Lingua Batte, dalle 10.45 alle 11.50. Paolo, ci vediamo qui a Barcellona tra poco. Ci vediamo a Barcellona, un grande abbraccio a tutti un voi. Un abbraccio. A te. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. I saw our house, or not our house, but the one we used to rent and share. Floating together with them multicolored bathtub ducks. Counting 9 to 0, 9, 0, 2, 1, 0, I saw them in the rain. The river took them all on the road, but not the river, but the stream. The overflowing waterway from a place we used to swim and play. In the rain, a giant heater landed on our heads. A stop, another fell, burned a hole in the floor. Took the guard of the pavement and our furniture for punishment. In the rain, I saw sheep gathering upon a hill. Lining up, farming letters, letters that were saying you are not the world. Piano di Trump per Gaza, che sarebbe trasferita nell'ospedale di Brescia e poi nell'area all'esterno dello stadio di Copenaghen e poi su un'isola artica, tra i resti di una stazione abbandonata. Avrebbe l'ok parziale dei paesi arabi. Tajani, riconoscimento dello Stato di Palestina, ma solo durante la giornata mondiale dei sogni. Auspico che anche l'opposizione la sostenga. Giorgia Meloni da New York, la maggioranza, presenterà una mozione per il riconoscimento di Pino Piromalli, capo del gruppo criminale più potente della Calabria, come successore di Giorgio Armani. Sfilate, clandestine e rischiose esibizioni di tweed, ricami e fili di seta dietro le sbarre. L'ultima proposta di Hamas ai mediatori, tregua di 60 giorni in cambio di 7 milioni di sigarette al giorno. E poi 129 abiti realizzati tra il 1980 e il 2025 e poi forse una gara di acrobazie in moto ad alta velocità. Splendide ma struggenti le immagini di due uomini ripresi da un drone a Novi Ligure mentre discutono animatamente. Erano Ciro Grillo e Nicolas Sarkozy. L'allarme dei presidenti intimiditi, non possiamo uscire di casa. Lo sfogo dell'ex presidente. Pensavo di aver visto un generale della Libia. E sono tornate anche le ultimissime, il nostro Fausto De Salvia che salutiamo e ringraziamo. Banzo Telegrafico, un commento su questa visione di quello che sta succedendo nel mondo. Sibillino Tajani, che è favorevole al riconoscimento della Palestina ma solo nella giornata mondiale dei sogni, quindi credo che ci abbia lanciato un messaggio indiretto e subdolo che comunque si attaglia bene al personaggio. Eh sì, vabbè, sorvoliamo sull'incontro tra Ciro Grillo e Sarkozy. Detto ciò, abbiamo ascoltato... Chissà di cosa avranno parlato, beh, non ne ho più pallida idea. Beh, io sì, qualche idea ce l'ho. Comunque, Banzo, prima ci siamo ascoltati un bel brano degli ex In The Rain. Perché? Perché hanno suonato recentemente a Barcellona. Esatto, hanno suonato il 23 settembre nell'ambito del Festival BAM, Barcelona Acción Musical, che è la cornice sonora delle feste della patrona, della Mercè. Per la puntata di venerdì scorso eravamo al completo, quindi non li abbiamo inseriti venerdì scorso, ma li abbiamo inseriti oggi perché il loro concerto è stato straordinario e Zibaldone c'era. Beh, se non conoscete gli ex, avete molto da recuperare perché sono attivi dal 1979, hanno avuto questa prodigiosa metamorfosi stilistica perché hanno cominciato come gruppo anarcho-punk, classiche sonorità punk, e adesso fanno questo, non lo so, noise rock da conservatorio, un contrasto incredibile fra rigore espressivo, libertà, suono caotico ma preso bene. Ed è stato bellissimo, Steven, lo sai perché c'eri e lo so anch'io per la stessa ragione, perché come succede nei concerti della Mercé, il 60% del pubblico era lì a caso e si erano presi benissimo nonostante non conoscessero gli ex, che comunque ci hanno esaltato anche dedicando un pensiero ai collettivi che nel quartiere di Vallcarca di Barcellona stanno lottando contro la gentrificazione, quindi vecchio cuore anarchico, grandi ex. Eh sì, tra l'altro, insomma, tra i tanti gruppi che si sono esibiti quest'anno alla Mercé c'erano anche le Pussy Riot, insomma, non vi mandiamo in onda un brano, però ve lo vogliamo almeno dire. Banzo, noi andiamo a bomba... Ma erano esattamente in contemporanea con gli ex, quindi... Per noi impossibile, esserci. Impossibile da vedere, certo. E noi andiamo subito a bomba con il brano con cui ci salutiamo e sì che in questo caso il nostro ultimo trago torna un po' al De Italia Otra Parte, per quanto in modo particolare, vero? Sì, di solito vi proponiamo una versione in una lingua straniera di un brano in italiano e no, questa volta è un discorso un po' diverso perché è un brano italiano ma non in italiano, la Celeberry Massive Control di Raff, una delle canzoni più famose degli anni 80 forse. Perché Raff il 29 settembre ha compiuto 66 anni. Auguri! Ecco, grande Steven, aspettavo, ormai tradizione. E quindi vi andiamo a proporre questo mega classicone, insomma, è un brano in inglese, scritto insieme a Bigazzi e Celso Valli, sono occupati della produzione degli arrangiamenti, ed è stata incisa in moltissimi paesi, però sempre con la versione in inglese, tranne un paio di eccezioni. Ne esiste una versione in ceco e una versione in finlandese che vi andiamo a far ascoltare adesso, interpretata da Meiju Suvas e intitolata Viet Itse Controllin. Insomma, vi dobbiamo dire due cose sul testo, che ovviamente abbiamo Google tradotto, perché insomma, finlandese. Il brano... Io qualche parolina capisco, ma da lì a capire tutto il testo. E il testo originale di Raff parlava di un'ossessione per la vita notturna, mentre quello finlandese, scritto da Antti Ollikainen, passa a una più classica canzone d'amore. Diciamo che l'ossessione diventa quella, ed è incredibile quante canzoni che non parlano d'amore, tramutate in un'altra versione, finiscono per parlare d'amore. Questa cosa ha anche un po' rotto le balle, ma la versione che sentirete è comunque qualcosa di unico, non penso l'abbiate mai sentita, quindi godetevela. Uscita nello stesso 84 che l'originale di Raff, e ci tengo anche a dire una cosa, Banzo, veramente interessantissima, che è il nome dell'album di Meiju Suvas, che è Tottakai, e mi piace molto come suona, che vuol dire certo, naturalmente. Detto ciò, noi ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Zibaldone. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17.55, diceva tutti i venerdì. Certo, naturalmente. Ah no, devo dire un'altra cosa. Trump, smettila di spostare Gaza dappertutto, va bene? Ciao Banzo, buon venerdì sera, godetevi questa versione molto particolare, tutta finlandese, di Self Control di Raff. Ystäväin unen aamun minut kanna, tunteitesi tuli anna, kestä enää en. Mie, olen sinun, yksin sinun vain. Ja tuli palaa polttaa rinnassain. Yön yli aamun minut kanna, tunteitesi tuli anna, kestä enää en. Tunteittesi tuli, anna kestä enää en.